La principessa nella foresta. C'era una volta, in un regno molto molto lontano, una regina così bella che nei tre mondi non si era mai vista tanta bellezza. La regina e il re vivevano felicemente governando il loro regno. Ma un giorno una grande disgrazia li colpì quando la regina si ammalò gravemente. Dottore, ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Abbiamo provato ogni possibile rimedio, Vostra Altezza, ma non c'è nulla da fare. Sua Altezza la regina desidera vedervi, maestà. Cara! Smetti di disturbare i dottori, caro. Non ti succederà nulla. Ciò che deve accadere, accadrà. No. Verrà un momento in cui dovrai sposarti di nuovo. Mai. Non sarà facile per te. Quindi ti darò il tempo di abituarti alla mia assenza. Promettimi che se ti sposerai di nuovo, sposerai solo una donna bella quanto me. Promettimelo. Nessun'altra può essere bella come te. L'amore rende le persone bellissime. Prenditi cura di nostra figlia. Quella notte la regina morì. Il re fu colpito dal dolore perché amava veramente sua moglie. Per anni il re non pensò nemmeno un attimo al matrimonio, finché un giorno i suoi cortigiani vennero da lui. Sua maestà, le donne di questa terra si sentono come se non ci fosse nessuno che le rappresenti, ascoltandole. Gli uomini non sono così abili come le donne a prendersi cura dei problemi di donne e bambini nel regno. Quindi, cosa pensate che dobbiamo fare? Vostra maestà, perdonate la nostra temerarietà, ma il nostro regno ha bisogno di una regina disperatamente. Come osi? Vostra Altezza, è solo per gli affari del regno che vi preghiamo di sposarvi di nuovo. Molto bene. Ma mia moglie ha espresso un ultimo desiderio, che io sposi solo una donna bella come lei. Vostra Altezza, manderemo i nostri messaggeri in lungo e in largo per soddisfare il desiderio della defunta regina. Così i cortigiani e i nobili del regno mandarono messaggeri nei regni in lungo e in largo, ma nessuna era bella come la regina. E gli anni passarono. Un giorno, un amico da tempo scomparso del re venne a fargli visita. Vostra Altezza! Ah, Garrison! Puoi chiamarmi Victor. Chiamate la principessa. Sono passati davvero tanti anni. Così tanti anni senza di lei? Ah, eccola qui, mia figlia. Cielo! Sembra proprio la regina. Gli stessi capelli dorati, la stessa bellezza celestiale. Sembra proprio la regina. Le parole del suo amico colpirono profondamente il re e prese una decisione. Alla fine, la promessa che aveva fatto alla regina morente sarebbe stata soddisfatta. Il re convocò i suoi cortigiani a corte. La regina voleva che solo una fanciulla bella come lei potesse diventare la nuova regina del nostro regno. Sono lieto di annunciare che ho trovato una donna bella come era lei. L'unica donna bella come lei è sua figlia, la mia principessa. Lei salirà al trono come regina e sposerà il figlio del primo ministro, che diventerà re quando io non ci sarò più. La principessa non fu felice di sentir dire questo. Così decise di evitare il matrimonio chiedendo qualcosa di impossibile. Padre, ma cosa dici? È stato il desiderio di tua madre, mia cara. Ma come posso sposare qualcuno che nemmeno conosco? Era il desiderio di tua madre. Ma... Basta, ho preso la mia decisione. D'accordo, sposerò il figlio del primo ministro solo se mi verranno date le quattro cose che chiederò. Tutto ciò che desideri ti sarà dato. Allora voglio tre vestiti. Uno d'oro come il sole, uno d'argento come la luna e il terzo brillante come le stelle. E infine Voglio un mantello fatto di mille cose della foresta senza ferire un fiore, un uccello o una bestia. Molto bene, figlia. Il tuo desiderio sarà esaudito. Così il re chiamò i migliori tessitori del regno e chiese loro di tessere gli abiti. Convocò i migliori soldati del suo esercito e chiese loro di raccogliere materiale per il mantello. La principessa pensò di aver chiesto qualcosa di assolutamente impossibile e così non avrebbe dovuto sposare il figlio del primo ministro. Ma no! Chiamatela magia o chiamatelo miracolo, i tessitori furono in grado di tessere un vestito dorato come il sole, un altro d'argento come la luna e il terzo brillante come le stelle. E un mantello fatto di piume cadute e foglie e rametti secchi, in modo che nessuna creatura fosse ferita. Diedero alla principessa una noce magica in cui tutti e quattro i capi potevano essere piegati e tenuti. Mia cara figlia, tutto ciò che desideravi è stato creato. Ora ti sposerai con il figlio del primo ministro. Ma padre, come posso sposare qualcuno che conosco a malapena? Hai promesso. Padre, la ragione per cui non hai trovato una regina bella come mia madre è perché la amavi e lei era la più bella per te. Questo è ciò che intendeva mia madre quando ha detto: l'amore rende le persone bellissime. Come può? Basta! Se hai a cuore tua madre, esaudirai il suo desiderio. Ti sposerai domani. Ma la principessa non poteva sposare un uomo che nemmeno conosceva. Così decise di andare via dal palazzo. Mi dispiace, padre. Un giorno capirai. La principessa vagò per il paese, nei villaggi, nelle foreste. Un giorno, stanca, trovò un albero cavo e si addormentò al suo interno. Mentre dormiva profondamente, il re del paese in cui si trovava passò di lì. I suoi soldati videro questo strano essere addormentato e lo raccontarono al re. Altezza, c'è una strana creatura dentro l'incavo dell'albero. Grande come un umano, ma che indossa il mantello più strano che si sia mai visto. Portalo a palazzo. Così i soldati tornarono all'albero cavo e svegliarono la principessa. Svegliati! Tu chi sei? Sono una creatura senza casa o focolare. Vieni con noi al palazzo. Troverai lavoro lì. Così la principessa entrò nel palazzo, dove le fu data una piccola stanza nel sottoscala. E iniziò a lavorare nella cucina, aiutando il cuoco per mesi. Un giorno il re fece una festa. Dopo che tutto fu pronto, la festa cominciò. La principessa chiese al cuoco: Signore, tutto il lavoro è fatto qui. Posso per favore andare a vedere il ballo? Prometto che non entrerò al banchetto. Ma certo, ma assicurati di tornare entro mezz'ora per pulire la cenere in cucina. Grazie, signore, lo farò. La principessa corse nella sua stanza, ripulì la fuliggine dal viso e dalle mani, tolse il vestito dorato come il sole dalla noce e lasciò cadere i suoi capelli dorati e andò al ballo. Non appena entrò, tutti furono incantati dalla sua splendida bellezza e il re ballò con nessun altro al di fuori di lei. Quando la mezz'ora finì... Devo andare ora, vostra altezza. Ma aspetta! La principessa svanì tra la folla e si precipitò di nuovo nella sua stanza. Indossò il suo mantello da foresta e coprì di nuovo il viso e le mani con la foliggine e tornò al lavoro in cucina. Sono tornata, signore. Devo iniziare a pulire la cenere? No, la cenere può aspettare. Prima prepara una zuppa per re. Sì, signore. Così la principessa preparò la zuppa per il re. Mise anche il sonello d'oro nella ciotola. Versò la zuppa sopra di esso in modo che l'anello non potesse essere visto e gli mandò la zuppa. Il re non aveva mai mangiato una zuppa così deliziosa prima d'ora. Trovò l'anello e fece chiamare il cuoco. Cuoco, hai preparato tu la zuppa stasera? Vostra Altezza, tutto in cucina è una mia responsabilità. Sì, ma hai fatto tu questa zuppa? Non ha assolutamente lo stesso sapore della tua. C'è qualche problema, vostra Altezza? Sì, Questa zuppa è migliore di qualsiasi altra zuppa che abbia mai mangiato prima. Questa non è sicuramente fatta da te. La ragazza della cucina l'ha preparata per voi, mio signor. Chiamala. Quindi la principessa fu chiamata per vedere il re. Hai preparato tu la zuppa? Sì, vostra altezza. È tuo? Come può una povera ragazza come me avere un tal anello, altezza? Mi ricordi qualcuno che ho incontrato oggi al ballo? Molto bene, la zuppa era deliziosa, grazie. Il piacere è mio, altezza. Pochi giorni dopo ci fu un altro ballo a palazzo. Ancora una volta la principessa chiese al cuoco il permesso di guardare il ballo. Questa volta indossò il vestito d'argento come la luna. Il re ballò con lei, ma non appena passò la mezz'ora, scomparve e divenne la ragazza della cucina ancora una volta. Sono tornata, signore. Devo iniziare a pulire la cenere? No, la cenere può aspettare. Prima prepara una zuppa per il re. Sì, signore. Questa volta la principessa prese la sua collana d'oro e la mise sul fondo della ciotola e vi versò sopra la zuppa in modo che non potesse essere vista e la mandò al re. Questa zuppa è la migliore che abbia mai mangiato. Che cos'è questa? Una collana? Chiama il cuoco e la ragazza della cucina. Quando il cuoco e la ragazza arrivarono... Hai preparato tu la zuppa stasera? Sì, vostra altezza. È tua? Come può una ragazza povera come me avere una collana come quella, altezza? Mi ricordi qualcuno che ho incontrato oggi al ballo? Molto bene, la zuppa era deliziosa, grazie. Il piacere è mio, altezza. Il re non poté fare a meno di fantasticare sulla misteriosa ragazza della cucina e la signora che aveva incontrato al ballo. Non riusciva a togliersi la sensazione che fossero la stessa persona. Così, quando arrivò il momento del nuovo ballo, decise che avrebbe scoperto la verità. Signore, tutto il lavoro è fatto qui. Posso per favore andare a vedere il ballo? Prometto che non entrerò al banchetto. D'accordo, ma assicurati di tornare entro mezz'ora per pulire la cenere in cucina. Grazie, signore, lo farò. La principessa indossò il vestito brillante come le stelle e andò al ballo. Il re ballò con nessun altro oltre a lei e mentre ballava... Il re fece scivolare l'anello che aveva trovato il primo giorno al dito della ragazza. La principessa non se ne rese conto, passò mezz'ora. Devo andare ora, altezza. Stasera la musica andrà avanti solo ancora per un altro poco. Ma io... Per favore. La musica andò avanti più a lungo e così la principessa ebbe appena il tempo di cambiarsi per tornare di nuovo in cucina. Non vide nemmeno l'anello al dito. Corse in cucina. Dov'eri? Il re sta aspettando la sua zuppa. Mi dispiace molto, la farò più in fretta. La principessa mise il braccialetto d'oro nella ciotola e lo coprì con la zuppa e mandò la zuppa al re. Il re la chiamò. Hai preparato tu il brodo stasera? Sì, vostra altezza. E tuo? Come può una ragazza povera come me avere un braccialetto come quello, altezza? Ma allora, come può una povera ragazza di cucina come te avere questo anello? Vostra altezza! Sei la signora con cui ho ballato stasera? Chi sei? E così la principessa disse al principe tutto della sua vita. Perché non mi hai detto tutto questo la prima volta che ci siamo incontrati al ballo? Perché volevo vedere se eri colpito solo dalla mia bellezza o se mi avresti amata abbastanza da essere paziente e scoprire come sono, anche quando mi vedi come una ragazza in cucina, perché mia madre ha detto l'amore rende le persone bellissime. Ti amo e non mi importerebbe se fossi davvero una ragazza di cucina. Vuoi sposarmi? Sì, lo voglio. Alla fine la principessa era riuscita a trovare il suo vero amore. Sposò il re. Anche suo padre venne invitato al matrimonio e la principessa e suo marito vissero felici e contenti.